Victoria. Dopo aver fatto un salto in camera a lasciare la borsa con il vestito nero e il corto pellicciotto bianco che si era comprata, Victoria prese l'ascensore per scendere al bar. Accompagnata dagli sguardi di approvazione degli ospiti maschili, si sedette su una poltrona di pelle. Un attimo dopo, un cameriere in giacca bianca comparve al suo fianco. «Una vodka, grazie», ordinò lei senza degnare di un'occhiata né il menù né il cameriere. «Ghiaccio?» scosse la testa. Mentre aspettava, aprì il giornale che aveva davanti. L'editoriale parlava del movimento Me Too. Victoria, che non leggeva un quotidiano svedese dall'estate precedente, rimase come ipnotizzata. Non si accorse nemmeno che era arrivata l'ordinazione. Anche alla pagina successiva, un lungo articolo di cultura parlava di come gli uomini di potere sfruttassero le giovani donne. Dopo aver letto il cappello iniziale, si guardò intorno per vedere che fine avesse fatto il cameriere e si accorse che la vodka era già davanti a lei. Ne beve un sorso, ma le andò di traverso. Al centro dell'articolo c'era una foto dell'uomo che doveva morire. Victoria batté le palpebre, osservò meglio. Non c'era dubbio, era proprio lui. Il direttore dell'Afton Pressen, Tommy Steen, dichiara che il giornale prende sul serio le accuse di molestie rivolte a due collaboratori, spiegava la didascalia. L'articolo approfondiva il discorso. Steen diceva di non poter prendere provvedimenti prima che i due uomini fossero eventualmente condannati. Rispondeva anche alle critiche che gli erano state rivolte per non averne voluto fare il nome, a differenza di quanto aveva fatto con uomini di altri ambienti lavorativi. Victoria aveva le mani sudate. Posò il giornale e beve un altro sorso di vodka. Quindi l'uomo si chiamava Tommy Steen ed era il direttore del giornale che stava leggendo. Paura ed eccitazione si alternavano dentro di lei. Il cameriere si fermò di nuovo al suo fianco e si schiarì la gola con discrezione. «Da parte del signore laggiù», disse con un cenno del capo verso un uomo in elegante completo scuro seduto al bar. Nel secchiello da ghiaccio che mise sul tavolo c'era un Moët Chandon. Victoria lanciò all'uomo un sorriso abbagliante, mentre il cameriere iniziava ad aprire la bottiglia con gesti esperti.